24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Presidente Fanfani, da 3 anni le chiedo questa intervista. Da 3 anni mi dice di no. Adesso ha accettato. Perché? Prima di tutto per levarle l'incomodo di richiedermela e in secondo luogo perché mi pare il momento in cui uno scambio di vedute tra lei e me può essere di qualche giovamento. Ecco, non è perché la corsa alla Presidenza della Repubblica prima era meglio farla in silenzio, no? Ma io per la verità non ho fatto nessuna corsa, ogni tanto mi hanno buttato fuori. Con la storia del rieccolo l'hanno inventata loro. Ecco, comunque lei 4 volte è già stato buttato fuori, nel senso che ha partecipato alla corsa alla Presidenza della Repubblica e 4 volte è stato sconfitto. Le pesa molto? Molte volte, anzi tutte 4 volte, non sono arrivato alla sconfitta. Mi sono ritirato prima quando ho constatato che la mia presenza poteva turbare la convergenza necessaria tra i partiti e anche lo spirito degli altri concorrenti. Ecco, era Fanfani, il cavallo di razza della Democrazia Cristiana, è entrato Papa 4 volte nella gara del Quirinale, è uscito sempre sconfitto. Marzio Breda, ciao, quirinalista del Corriere della Sera, è proprio, sarà un ternallotto così anche questa volta, secondo te, l'elezione del Presidente? Beh, insomma, ci sono diversi indicatori che possono portare in quella direzione. Sì, portare in quella direzione perché insomma c'è una voglia di resa dei conti sia in casa del PD da parte della minoranza anti-renziana, certo. Ma anche un po', nel partito di Forza Italia, e quindi questo potrebbe essere la grande incognita rispetto al nome che ha in mente Renzi di proporre. Ecco, questo nome poi magari ne parliamo un secondo. Ecco, tu hai seguito Napolitano in questi 9 anni, quello di oggi è veramente il giorno più sereno per il presidente, come dice lui, che esce dalla sua prigione, oppure è un giorno triste? No, io credo che sia abbastanza vero, nel senso che sia liberatorio per lui, perché effettivamente il secondo mandato non lo voleva assolutamente prendere. E, diciamo che si è sentito costretto dalla palude del paese, dal fatto che andarono in processione un largo fronte di partiti, certo, e addirittura i presidenti di tutte le regioni, insomma, la situazione. Cioè, non poteva dire no. Non poteva dire ecco, di però no. Esce sostanzialmente sconfitto dopo questi 3 governi voluti da lui per fare le riforme che non ci sono. È un addio mesto da questo punto di vista. Sì, da questo punto di vista è vero, perché appunto lui aveva legato, naturalmente i partiti si erano impegnati, questo secondo mandato l'aveva legato appunto alla partita delle riforme. Il cantiere è aperto, ma sono ancora tutte da chiudere, insomma, certo, quindi un uomo sconfitto in qualche modo. Sì. Ecco, secondo te avrà un ruolo nella successione a se stesso oppure così? Ma io sono assolutamente convinto che lui avrà indicato almeno i tratti, il profilo a Renzi che dovrebbe avere, e forse anche magari avrà fatto qualche nome a Renzi, perché insomma. Ma tu che vivi lì hai sentito fare, si parla di qualche nome? Quelli di cui si parla tutti, vabbè, ma insomma sono ipotesi. Fatti? Nomi fatti? Nomi fatti no, insomma è chiaro che se uno cercasse le figure che piacciono a Napolitano dovrebbe dire per esempio Giuliano Amato, che sicuramente è un uomo che Napolitano stima, certo, al di là dell'amicizia personale, sì, per il percorso che ha, no? Politico istituzionale e anche la reputazione, diciamo, in Europa, però è chiaro che la partita, certo, poi è molto interna al PD, di sicuro lui vorrebbe e crede che sia necessario un politico di esperienza. Ma tu ci credi a un'elezione al quarto scrutinio? Se non ci fosse sarebbe una debacle per Renzi? Sarebbe una debacle per Renzi, c'è da dire che di fatto il negoziato si è aperto da almeno un mese e quindi insomma altri 15 giorni si aprono ora da oggi, e insomma Renzi Renzi avrà sicuramente una rosa, ma avrà anche il nome secco su cui puntare, certo. Insomma c'è da sperare che anche proprio per il paese, perché non potremmo, sarebbe grave. Naturalmente, stavolta, questo sarebbe veramente grave. Senti, sì, ma un'ultimissima cosa, basteranno Renzi e Berlusconi uniti per farlo presidente? Sì, basterebbero, e anche abbondantemente basterebbero, a condizione naturalmente che poi i loro rispettivi partiti siano anche questi uniti. Vabbè, allora staremo a vedere, avremo tutti questi 15 giorni per parlarne. Grazie Marzio, buon lavoro. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Ecco, vedremo per Napoletano, ne parleremo con Mario, con Pietrangelo naturalmente tutti questi giorni. Napolitano ha parlato nel suo addio, ha parlato di prigione. Anche noi parliamo di prigioni, ma di prigioni di quelle vere. E ne parliamo col presidente del DAP, del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. C'è una polemica in corso sul ruolo delle cooperative che operano all'interno e sugli esempi virtuosi che ci sono. Ecco, il capo del DAP è il presidente Santi Consolo. Ecco, presidente Consolo, direttore del DAP, dicevo. Si è preso una bella rogna in questo momento, No, diciamo, è un problema che va affrontato secondo le regole della buona amministrazione. Ecco, durante le vacanze di Natale è scoppiata una polemica all'interno del sistema penitenziario in seguito alle decisioni di tagliare i fondi alle cooperative che si occupano delle mense nelle carceri. Perché questa decisione? Guardi, la polemica è strumentale, in quanto che la Cassa delle Ammende, già con delibera del dicembre 2013, aveva preannunciato a tutte le cooperative una proroga di soli 6 mesi. E questo è il fondamento della decisione, quindi? No, non è il fondamento della decisione, ma tutte le cooperative sapevano che il servizio si sarebbe interrotto a fine 2014, perché a quella prima delibera ne è seguita un'altra nel marzo, in cui si diceva chiaramente che il termine non era più prorogabile oltre il 31 dicembre del 2014. Ecco, presidente Consolo, però a questa proroga poi, come estrema ratio, ne è seguita un'altra di soli 15 giorni. Benissimo, ho capito. Quindi la polemica che alcuni alimentano è una polemica che, mi dispiace dirlo, non fa bene alle cooperative con le quali noi come dipartimento e come dirigenti generali appartenenti a questo dipartimento vogliamo fortemente continuare a collaborare. Ecco, presidente Consolo, il suo predecessore Giovanni Tamburino, il 17 marzo del 2014, dopo aver incontrato i 10 direttori di carcere in cui esercitano le cooperative delle mense, ha detto: il giudizio è fortemente positivo, non si torna indietro, anzi si va avanti. Allora non sbagliava o sbagliava? Il mio predecessore aveva ragione e io sono sulla linea di continuità con quell'indirizzo. Perfetto. E a dimostrazione di tutto questo le posso anticipare che ho fatto partire degli inviti alle cooperative con le quali mi incontrerò prossimamente, in quanto voglio continuare a conciliare quella che è un'attività nostra di impresa delle direzioni con l'attività, con le capacità imprenditoriali delle singole cooperative. Senta, presidente, io per ragioni di verità le voglio dire, sì, dica. È preso servizio il 20 di dicembre, sì. Il 23 dicembre ho costretto i provveditori e i direttori generali a riunirci al Dipartimento proprio per elaborare linee programmatiche di collaborazione. D'accordo, adesso ne parliamo. Con tutte le cooperative. Lei lo sa però che la maggioranza dei direttori, dei provveditori, quindi va in questa linea, il personale dell'amministrazione, gli agenti, i cappellani, i magistrati di sorveglianza sono concordi quasi all'unanimità nel valutare positivamente questa esperienza. Quindi quindi questo è quello che l'ha fatto riflettere, l'ha fatto richiedere questa riunione, se capisco. No, questo è un mio convincimento personale. Io sono convinto che le cooperative sono un valore in più perché hanno una capacità imprenditoriale. Noi abbiamo degli ambienti che abbiamo messo a disposizione delle cooperative e vogliamo continuare a metterla a disposizione delle cooperative. Noi abbiamo comprato degli strumenti di produzione che vogliamo continuare a mettere a disposizione delle cooperative. Noi offriamo alle cooperative il lavoro detenuto con tutte le agevolazioni. E quando, scusi, Presidente, della legge Smuraglia, quando li incontrerete, Presidente? Pensa presto. Li incontrerò il 21 di questo mese. Questo è molto importante. Affinché loro mi presentino il 21 delle concrete, certo, possibilità progettuali alle quali io posso dare risposte. Ma quindi per lei è importante la valutazione delle persone che vivono quotidianamente nel carcere? Certo che è importante la valutazione delle persone che vivono quotidianamente nel carcere, però è pure importante per me elaborare delle strategie di lavoro diffuso per tutti i detenuti, perché il lavoro, oltre a essere una fonte di reddito, è anche un elemento del trattamento che aiuta a migliorare e a reinserire tutti i detenuti. Naturalmente, anzi, sì, i numeri del reinserimento sono numeri molto interessanti, perché laddove si impara a lavorare in carcere, quando si esce si può reinserire nella società, e si passa da una recidiva del 70% fra chi esce e non ha mai lavorato con una del 2% con chi ha imparato a lavorare in carcere. Quindi questo è quello Concordo pienamente sul valore sociale del lavoro che si offre ai detenuti. Ma qual è la sua idea del lavoro penitenziario? C'è una linea fondamentale della rieducazione, secondo lei? Certo che c'è una linea fondamentale della rieducazione, ma c'è pure un'esigenza di offrire lavoro a tutti i detenuti. E per fare questo le risorse vanno distribuite per tutti. Noi stiamo parlando di 10 cooperative che forniscono un servizio mensa solo per 7.000 detenuti. Beh, è un modello che si può estendere a tutti, no? Si può estendere a tutti, se funziona ed è felice. Ma i costi attuali noi non possiamo estenderla a tutti per le risorse che abbiamo a disposizione e che sono esigue. Naturalmente, però nel 2013 la Corte dei diritti dell'uomo ha affermato che il detenuto va retribuito come un lavoratore libero. Ecco, non c'è un rischio di condanna della Corte se si cambiano le regole? Noi siamo rispettosissimi delle regole europee e quando io ero vice capo di questo dipartimento ho elaborato una riforma circa il lavoro detenuti e il compenso per le mercedi ai detenuti che era perfettamente in linea con le regole europee. Quindi noi dobbiamo tutti quanti collaborare unitamente alle cooperative affinché si ripensi nell'attualità delle esigenze e della situazione sociale che oggi c'è, senza contrapporsi. Il ritorno della gestione del servizio mensa in capo al DAP, che tipo di problemi dà? Che cosa significa? Perché dal punto di vista economico non sono sicuro che sia un vantaggio. Guardi, intanto, e questa è un'altra cosa, perché io credo che oggi, fino ad oggi, i giornali hanno sentito soltanto le cooperative. Infatti siamo qui a parlare noi apposta. I direttori di riferimento, e quindi io di questo le sono molto grato, perché finalmente c'è un giornalista che io apprezzo che si rivolge a me per avere notizie su questo versante. Esatto. Io le posso dire che ho fatto un questionario molto dettagliato sia a tutte le direzioni sia chiedendo anche la collaborazione delle cooperative. Benissimo. Perché sto facendo una ricognizione dei costi. Esatto, beh, lei è lì solo da 20 giorni, allora, quindi è normale. Allora, facendo questa ricognizione dei costi, forse quello che le cooperative vanno dicendo in tutti i giornali non risponde al resto. Vabbè, e questo lo verificherà e quindi lo saprà. E questo lo verificheremo e poi le fornirò i dati ufficiali del DAP. Ma le posso assicurare che su 202 istituti, ben 192 hanno un servizio mensa con affidamento diretto in economia, facendo lavorare un numero pressoché corrispondente di detenuti, come stanno facendo le cooperative in quei 10 istituti. Ecco, ma in quei 10... E allora in quei 10 istituti, l'anticipo io, sì, quale potrebbe essere il valore in più? Il valore è la maggiore professionalità e, certo, la maggiore attenzione e la maggiore cura. E quindi è una facilità maggiore anche di reinserimento, come abbiamo detto prima, coi numeri rispetto alla recidiva. Ma lei consente che noi dobbiamo fare anche una valutazione di costi e benefici? Naturalmente. E soprattutto di praticabilità, certo, di un aiuto. Lei ha detto il bilancio è quello che è. No, non è solo un problema di bilancio e di economia. Le cooperative hanno iniziato con queste sovvenzioni per un servizio, che è il servizio mensa, certo, non per un progetto che si avvia e poi cammina con le sue gambe. Beh, però se funziona... Se funziona sarebbe bene estenderlo. La domanda mi permette che gliela faccio io. Quando sono partite quasi tutte le cooperative? Sì, non lo so. Sono partite nel 2003, glielo dico io. E sono partite 11. Con un PEA e con un progetto europeo che dava soldi, hanno preso soldi dal 2003, sì, che prevedeva di ricercare commesse esterne, ampliando il volume d'affare e aumentando il numero di detenuti lavoranti. Beh, mi sembra buono. Con un impegno ulteriore: abbassare proporzionalmente il gettone giornaliero riconosciuto per il confezionamento dei pasti dei detenuti. Vabbè, e questo sarà un conto quello che lei dice sarà il costo. Questo era l'impegno e la finalità iniziale. Sì. Purtroppo, dal 2003 ad oggi, sì, non c'è stato questo aumento dei volumi e delle assunzioni. E il gettone per il pasto, per il confezionamento pasti, non è affatto diminuito. E allora io di questo non ne voglio fare una colpa alle cooperative, perché sappiamo tutti come è andata l'economia in questi ultimi anni. Ma però alle Vallette a Torino si fa catering. Sì. E quello io lo voglio continuare a far fare il catering, tutte le produzioni dolciarie parallele le voglio continuare a fare, solo che, guardi, abbia la pazienza di ascoltarmi, certo, su un punto che è fondamentale. Mi dica. La cassa delle ammende, famigerata, che ha dato soldi dal 2009 alla fine del 2014, può finanziare progetti per l'avvio di attività. Sul servizio mensa. Adesso io non voglio entrare, Presidente. Non può continuare a sovvenzionare un servizio. Ho capito. E allora troviamo un'alternativa. Esatto, Presidente. Mi presentino dei progetti sono fattibili e io aiuto le cooperative. Benissimo. Io le voglio dentro. Se ho capito bene, però, dopo che ha incontrato le cooperative che hanno fatto, le 10 cooperative che hanno fatto questa esperienza vincente, perché abbiamo visto i risultati, ecco, trovando i soldi o riducendo e dividendo in modo diverso la torta, questa esperienza positiva non va buttata via, ma va concordata. Mi sembra che lei voglia, certo, fare questo: concordare con loro come sfruttare questa esperienza per continuarla. È così, ho capito, certo, bene? Certo. Un'ultimissima domanda: questo taglio che avete previsto al credito d'imposta, che era destinato alle cooperative, che senso ha? Guardi, il taglio deriva dalle disponibilità che noi abbiamo. E siamo al discorso di prima, mancano i soldi. Se le disponibilità vengono ridotte, noi se annulliamo nei confronti di una sola cooperativa le agevolazioni, noi uccidiamo una cooperativa. Se proporzionalmente riduciamo per tutti, però prima naturalmente scegliete le migliori, vivere, che noi vogliamo dare. L'appuntamento sostanzialmente è per il giorno dell'incontro, si valuterà il risultato e di lì può nascere un miracolo. Da lì noi potremo continuare a camminare con tutti coloro che vorranno collaborare. Benissimo. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, le sms. Ecco, quella che vi raccontiamo adesso è una storia di riscatto attraverso il lavoro imparato nel carcere. Stefano è il nome, è uno di quelli che ce l'ha fatta. Tra chi ha imparato un mestiere in carcere, e questo è un dato interessantissimo, il tasso di recidiva, cioè di ricaduta nell'illegalità, è del 2%. Chi ha imparato il carcere, 2% recidivo. Il 70% chi esce senza aver imparato un mestiere. Sono dati che fanno riflettere, perché se chi sbaglia deve pagare, ed è vero, è anche vero che non deve perdere né la speranza né la dignità. Ecco Stefano, come hai trovato il lavoro? Il lavoro tramite gli operatori della cooperativa, i cuochi. Ah, cioè è stato il pasticcere che vi faceva i corsi in carcere, che ti ha preso quando sei uscito? Sì, che mi ha preso quando sono uscito, sì. Cioè, cosa ti ha detto? La cooperativa, si sono tenuti in contatto e mi ha assunto poi, come ha aperto un'attività nuova. Ma in carcere, lavorare e guadagnarsi un po' di soldi fa la differenza rispetto a chi non fa niente? Certo, uno è per la tua dignità, comunque ti rendi utile, anche se hai sbagliato nella vita, fai qualcosa in carcere, no? Ti rendi utile, dai una mano alla famiglia. Ma perché... ci sono delle persone che ti insegnano a fare delle cose, se non sei capace a fare niente. Ma tu avevi già imparato un po' a San Patrignano? Un annetto così. Perché eri a San Patrignano? Perché ho avuto problemi legati alla tossicodipendenza. Ah. Dopo San Patrignano hai fatto le rapine e sei andato in carcere? È andata così? Sì, purtroppo sì, sì. Mm. Ecco, ma senza un mestiere... non trovavo lavoro. Oggi la tua vita come sarebbe senza un mestiere in mano, senza aver potuto imparare a fare il pasticcere? Penso che sia come quella di prima. Intanto non sarei potuto uscire se nessuno mi insegnava il mestiere. E poi una volta uscito avresti ricominciato. Sì, senza lavoro come campa una persona? Come va avanti? Che anche se uno si toglie dalla droga, ti togli da mezzo alla strada, ma se non lavori cosa fai? E quindi quel lavoro che hai imparato in carcere è fondamentale. Certo. Ma è la paura più grande quando si torna alla libertà, è proprio quella di non trovare niente da fare? Di non trovare niente da fare, di trovare nulla. Sei circondato in mezzo alla persona, però ti senti solo. Non è un lavoro, nessuno che ti dà una mano, sei circondato da tante cose, ma in realtà non c'è niente, non c'è nessuno che ti dà una mano. Ma in carcere se non lavori cosa fai? Sei tutto il giorno in veranda, o comunque c'è 2 ore d'aria a mattino, 2 ore d'aria a pomeriggio. Cioè 20 ore in branda, 18 ore in branda. 19 o 18-19 ore sei in branda o attaccato al televisore. Senti, ma se non cambia adesso, se non cambia qualcosa, chiuderanno le cooperative che gestiscono le messe in carcere. Sarà un problema secondo te, secondo la tua esperienza? Secondo la mia esperienza sì, perché con le cooperative bene o male danno una mano a persone che hanno voglia di comunque di riscattarsi, comunque di non stare buttati in una cella tutto il giorno. E quindi di questo... fare qualcosa, di rendersi utili, anche qualcosa. E questo sarà il problema, soprattutto se chiudono queste cooperative. Certo che sarà il problema, secondo me sì. Tolgono la possibilità, va bene, uno è sbagliato, sta pagando, però che paghi con un po' di dignità. Se uno ha una possibilità di riscattarsi, perché no? Mix 24. È successo che ormai hanno messo sempre alla prima ora per la sua lezione il filosofo. Lo incontro e ogni incontro è sempre una sorpresa, perché oggi la questione è questa: dove si è, quando si è, perché mi ha spiegato è indissociabile da ognuno la propria solitudine. E starsene da soli, mi ha spiegato, è una teoria della vita che aiuta a saperne molto di più della vita stessa. E lui mi ha spiegato questa cosa osservando i pendolari, perché diceva ognuno si procura un esodo verso uno spazio aperto di occhi bagnati, di mani gelate, di gambe bloccate, ed era l'occhio di una ragazza rimasta da sola. Si tratta di questo. E a mano che lei si avvicinava a colui che, guardandola, e di questo si tratta, si sentiva risucchiare da un vortice di giostra, ecco, improvvisamente, una impressione di scorgere una sorta di segnale parallelo che diceva alla ragazza: attenzione, questo è l'ultimo pianto prima della grande scoperta. Addio, eseguito da Io Tattola. Mancato Mario ieri. Mi immagino. Eravate molto affranti. Eravamo sicuro, affranti, sì. Senza di te. Vabbè. Certo, ma e preoccupati. Certo. Dice tornò. Eravamo a Milano. Bolla! Milano. Ci saranno momenti di gloria nella nostra vita, ma tu assicuro. Sentiamo un po' di musica ancora. Ma... vabbè, insomma, momenti, orizzonti, vedete voi, costruiamo qualcosa. Nel frattempo, che cosa succede, Giovanni? Allora, la Banca Mondiale ha visto al ribasso la crescita globale. Bene gli Stati Uniti, rallenta la Cina, male proprio. Male l'Europa. Oggi escono i dati sulla produzione industriale dell'Eurozona, quindi drizzate tutti le antenne, cari nostri ascoltatori. Pare, forse, sembra, sono previsti in ulteriore calo. Per il vecchio continente proprio la Banca Mondiale aveva raccomandato, diciamo volgarmente, di stampare moneta, insomma il famoso quantitative easing. È quello che si appresta a fare, no, Draghi? Quelli colti. Non lo so, vediamo. Perché ho scoperto che c'è una riunione della Corte di Giustizia Europea per capire se il mandato della BCE viene, diciamo, infranto o no con questi provvedimenti. Questa ipotesi di stampare moneta. Sì, secondo me metteranno dei paletti ulteriori a Draghi. Quindi ci sarà probabilmente un limite alle azioni della BCE. C'è un dito alzato di buttafuoco. Una io domanda, ma non è aberrante l'idea che siano le banche ad emettere moneta e non lo Stato? Chi vuoi che la emetta non la c'è moneta? Lo Stato, ormai, lo Stato, tu faresti emettere moneta al governo lo italiano? Stato Europa. Abbi pazienza, ti fideresti. Vabbè, riacquistando la sovranità. No, sì, certo, il problema della sovranità della moneta è un altro film ancora, ma l'idea che sia... Sono legati non i due lo film, so, però. Insomma. Sì, mica tanto, ma ultimamente sono un po'... appunto, infatti dire. Non vanno bene le cose. Questo pezzo è proprio forte, senti che... chitarre, senti, sì... ricordavo, l'ho trovato stamattina mentre facevamo il nostro menù quotidiano con Pietrangelo, Assare e tutti gli altri. Bene, tora perché ci occupiamo di Giappone. Sapete che il Pacifico è una cosa importante per noi. Ebbene, il Giappone spenderà 42 miliardi di dollari nella difesa, una spesa in forte crescita, più 2.8%, e uno si chiede, vabbè, ma di che cosa si preoccupa Shinzo Abe, va tutto bene là? E no, si preoccupa della Cina, naturalmente. Sapete quanto ha speso la Cina in armi? Anzi, quanto spenderà nel 130 miliardi di dollari. Pazzesco. In crescita del 12%. Sarà pure pacifico, ma non so per quanto ci sarà, di pace. Ci sarà la pace là nei prossimi Salamino! Anni. Salamini spiritici, dai. Salamini spiritici. Allora, non solo Prodi, Giovanni, non solo Prodi. E mi spiego. Il 3 aprile del 1978 Romano Prodi partecipa a una seduta spiritica per interrogare gli spettri di Don Sturzo e di La Pira e avere indicazioni da loro su Aldo Moro sequestrato dalle Brigate Rosse. Prodi poi verrà chiamato a riferire davanti alla commissione parlamentare perché comunque non si sa se Don Sturzo o La Pira un indizio glielo diedero, e cioè Gradoli, non il delizioso paese in provincia di Viterbo, bensì via Gradoli, che fu uno dei covi dove veniva tenuto prigioniero il leader democristiano. Insomma, non solo Prodi, anche noi cominciamo, fatto, siamo pronti, cominciamo a tenerci per mano. Giovanni, dammi la tua mano, dai la tua mano, stringiamoci Mario, poi tutti la mano. Sara, siamo stretti. Perché? Sara in regia ha finito la cura del 3D, vai, e stringe la mano. Teniamoci ste mani, spegniamo le luci. Allora, non ci vedo più niente. Allora, io farei questa proposta. Oggi è l'anniversario della nascita di Giulio Andreotti. Allora, evochiamolo. Io direi una cosa, perché un'idea che è venuta fuori con tutta la banda dell'osso buco. Osso buco, sì. Allora, certo. Passando da Gradoli, io direi che sarebbe il caso, se sei d'accordo Giovanni, ci mettiamo qui, teniamoci per mano, intanto cerchiamo di evocare lo spirito di Giulio Andreotti e chiedere a lui chi sarà il futuro presidente della Repubblica Italiana. Intanto siamo riusciti. Tu mettiti in trance, Mario. Che trance? Io ho già paura. Avete spento la luce. Sento una mano sulla schiena. Ma chi è? Sara. Si sente? Quella sarà una mano amica. Quando dietro la schiena non è mai amica. C'è il presidente Andreotti? Perfetto. Allora, presidente, ci mettiamo d'accordo. Battuto il colpo. No, più di uno, no? Perché allora, facciamo così. Nel caso, noi le facciamo le domande. Se facciamo dei nomi, se sì, magari ne fa due. Se no, ne fa due. Se sì, ne faccia tanti. Va bene? Giovanni, vuoi fare un nome, una tua ipotesi? Guarda, la mia ipotesi è Sergio Romano. Perché quelli seri non li prendo? Glielo chiedo io. Onorevole, guardi, ma non è che sarà un post-democristiano tipo Pier Ferdinando Casini? Hai visto? Già meglio di Romano. Giulio è grande ancora. Ancora? Puoi chiedere chi, avendo le scuole alte, decifro? No, allora, tu decifra, io chiedo. Presidente, ma non è che forse alla fine potrebbe venire fuori il nome di una donna post-comunista? Vabbè, Finocchiaro, vuoi dire? Niente, no. Lì niente, è tutta la storia niente. Del... Niente. E Fassino? Fassino, quello alto, lungo di Torino? Come? No. Presidente... Che? La domanda, Giovanni, scusa. No, chiedevo Piero Fassino, ex segretario del PDS, un uomo con esperienza internazionale. Non pervenuto. Niente. Presidente, chiedo scusa. Vuole stare zitto? No. Allora vuole rispondere alla domanda di Giovanni Minoli? È Fassino? Niente. È Fassino, no, o non vuole rispondere? E no, perché quello è Andreotti. Andreotti è enigmatico. Allora, vuole rispondere? Non vuole rispondere. Non vuole rispondere. Vabbè. Okay. Un'ultima domanda la posso fare al presidente? Certo. Presidente Andreotti, ce l'ho proprio da sempre, le volevo chiedere. È contento dell'operato del presidente uscente Napolitano? Ma non ha esagerato, Andreotti si è distratto. Che grande apprezzamento. A sto punto glielo chiedo. Scusi presidente, ma Matteo Renzi le piace? Le piace. Ha detto no. Ha detto no. Grazie presidente, grazie, grazie. Ci ripensi presidente, ci ripensi. Mix 24. Pollyanna, chissà che in ogni viso nascosto c'è un sorriso e lo conquisterà. Raimondo, dimmi. Sandra non è mai. Non è mai. A forza di farlo. Sandra e Raimondo, tutti i giorni. Senti, ma cosa c'entra Polianna oggi? Basta, bisogna pensare positivo. Positivo. Impariamo dal nostro ministro degli esteri Paolo Gentiloni, che da subito è stato alle prese con lo spinoso caso Marò. Infatti, nonostante le difficoltà, il 5 dicembre parlava così: ci stiamo lavorando con grande serietà e riservatezza. Penso che siano stati fatti dei passi avanti. Ecco, bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto. Era questo che voleva dire nella sua dichiarazione il ministro. Perché la Corte Suprema indiana ci ha fatto l'elemosina con una proroga di 3 mesi per Massimiliano Latorre, il fuciliere tornato in Italia dopo un ictus. E Gentiloni oggi dichiara entusiasta e molto positivo. Insomma, oggi il mio hashtag è siamo tutti Pollyanna! Bolla, sì, dopo senti, Polianna. Senti che bello, senti. Mercato immobiliare, quello che conta davvero è la posizione. È col massimo del... Più sei vicino al centro, più alto sarà il valore della proprietà. Frank Underwood, House of Cards. Ma illuminata, eh? Cioè, beh, è il potere è come il mercato immobiliare. Siamo proprio pazzaglia puro. però dai, è forte, forte. Allora, perché? Perché parliamo di House of Cards, parliamo di fiction, parliamo di scrittura, di narrazione per la televisione, per il video, e stanno succedendo cose interessantissime, sono dei cambiamenti enormi che arriveranno anche da noi, in Italia, riguardano soprattutto gli Stati Uniti in questo momento. Woody Allen ha firmato un contratto per Amazon. È una cosa molto importante, più di quanto si creda, perché produrrà per la prima volta, scriverà e produrrà per la prima volta uno show televisivo. Segnalo che questo è solo l'ultimo degli eventi. I Golden Globe sono stati vinti sostanzialmente da Netflix e da Amazon ancora, con Transparent e con House of Cards. Il regista di Fight Club e anche quello di Matrix stanno lavorando a progetti per Netflix. Gli autori più bravi di Hollywood stanno andando tutti a lavorare per i big online. Mi chiedo se qui qualcuno ha ancora qualche dubbio sul fatto che la rete sarà la vera Daniele protagonista Doglio. Lo chiederemo della Daniele Doglio televisione. La prossima volta. Salamino. Trionfale discorso ieri di Matteo Renzi all'assemblea di Strasburgo per la chiusura del semestre europeo guidato dall'Italia. Oh, Giovanni, il Parlamento gremito in ogni ordine dei palchi, sopracalchi, sedie, poltrone, puff, divani, sgabelli, ha seguito il religioso silenzio l'elenco di progressi, successi, applausi e festeggiamenti attinghite guadagnati dall'Europa grazie all'Italia, che in questo semestre, grazie soprattutto a Federica Mogherini, ha saputo rendere recente, very well e stupenda la stagione. È proprio un religioso silenzio ci fu ieri per Renzi, perché diciamo non c'era nessuno. Vabbè. Ha parlato a un'aula che manco si può dire un'aula e grigia. Muta, sorda e grigia, no, ma neppure, soprattutto no, oh, neppure abitata da bivacchi di manipoli, e a parte Matteo Salvini che stava lì per insomma per fronteggiare l'altro Matteo, è successo che il suo discorso è diventato veramente complicato. Intanto ha fatto una spiegazione del perché gli italiani sono tutti ricchi. Ah, sentiamo. Lo sapete perché sono tutti ricchi, perché? Secondo Matteo Renzi? Perché la crisi ha fatto sì che la gente non spendesse, e quindi non spendendo si è verificato quella teoria economica che dice che lo sparagno già è mezzo guadagno. Dopodiché questi italiani devono cominciare ad essere più letterati, perché lui ha citato fatti non foste a vivere come bruti ma per seguir virtute, e lì ha sbagliato. Se la vuoi fare, falla tutta, come direbbe lui, cool, devi dire conoscenza, invece dice l'ha sbagliata, e quindi c'è stata tutta la questione con Salvini che ululava urlava contro, lui ha detto non leggete più di quei libri. Oh, almeno quello i libri li legge, lui fa chi, solo Salvini? E fa solo, sì, io posso dire che i miei li ha letti. Sì, e li ripete a memoria. Dopodiché, cioè quello che legge i tweet, no, oltretutto, vabbè. Ma la scena allora bellissima, che non c'era nessuno. Lui ha parlato e la Mogherini ha dato un contributo significativo. Grosso? Sì, ha spento la luce. No, scusa, però c'è una cosa. Questa cosa che ha detto Renzi è fuori da, completamente dalla realtà. Dovrebbe almeno farsi dare le relazioni di Banca Italia sui bilanci delle famiglie italiane per scoprire che nel 2013 la ricchezza è diminuita dell'1% e fischia, e anche nel 2014. Solo il questo. 14 gennaio del 1875 nasceva Albert Schweitzer. Einstein lo ha definito l'uomo più buono del secolo, un medico, un teologo che ha dedicato la sua vita a curare i malati in Africa. A Colmar c'era un famoso monumento all'ammiraglio Brouat. Sul basamento vi era scolpito il volto triste e meditativo di un negro. Ogni volta che lo vedevo non potevo fare a meno di pensare all'arretratezza e alla miseria del continente africano. Fu quel volto a indirizzare i miei pensieri di bambino verso l'Africa. Per l'uomo veramente etico ogni vita è sacra, inclusa quella che dal punto di vista umano sembra inferiore. Si fa lentamente strada la nozione che l'etica non riguarda solamente l'umanità, ma anche la specie animale. Ogni vita spirituale si trova dentro la vita naturale. Il rispetto per la vita vale dunque per ambedue. Dopo il giornale radio racconteremo la sua storia, realizzata da Sergio Leginski e curata come sempre da Marina Milone. Ci chiedono Galliani da Trieste, ci chiede la replica della famiglia Saud. Lo faremo molto presto perché sono in molti che ce l'hanno chiesto. E per chiudere, De André, anime salve. Mi sono guardato piangere in uno specchio di neve, mi sono visto che ridevo, mi sono visto di spalle.